ti metterò le mani in bocca, le mani in bocca. Adesso ti metterò le mani in bocca, pa! Ti metterò le mani in bocca, le mani in bocca. Adesso ti metterò le mani in bocca, pa! Yeah! Ti metterò le mani in bocca, le mani in bocca. Adesso ti metterò le mani in bocca, pa! Ti metterò le mani in bocca, le mani in bocca. Adesso ti metterò le mani in bocca, pa! Yeah! Le mani in bocca, che ti perseguita la vita, che ti perseguita la vita. Le mani in bocca, pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Le mani in bocca.